Avvocati di Carlo Genta. Ecco i cori che hanno accolto Higuain a Torino, maglietta bianca, panciotto grigio, secondo moda molto giovanile, occhiali da sole e un bel sorriso, che penso sia quello anche di Massimo Zampini, non so se sia quello di Boris Sollazzo. Juventus-Napoli comincia da qui, la cominciamo noi. Massimo, buongiorno! Ciao, buongiorno a voi, sì, un buon sorriso, buon sorriso. Un'alternativa in attacco importante. Alternativa? Sì, un cambio per Mandzukic e compagnia, comunque di discreto livello. Di discreto livello per una discreta quantità di denaro, 90 milionuzzi di euro che rendono il Napoli, io credo, contento, perché penso che l'affare l'abbiano fatto tutti e due, ma Boris Sollazzo so che la pensa così. Sì, sì, assolutamente, sono contento, insomma, devo dire che ero contento se fosse rimasto, devo essere sincero, sono contento che se ne sia andato, perché questa era la classica situazione win-win, cioè o prendevi 90 milioni o tenevi il centravanti più forte in questo momento, chiaramente dopo Manzu che c'è Dybala, a quanto dice Zampini. Sì. Però insomma non, il Napoli, come ho già detto, il Napoli è già sicuro di aver fatto un affare, la Juve deve scoprirlo ancora. Deve scoprirlo secondo te Massimo Zampini? No, io penso che un affare, diciamo, se parliamo economicamente, è chiaro, è una cifra, basta vedere le classifiche di tutti i tempi, cioè è inutile che ci stiamo qui a dilungare, quindi sicuramente è un affare che è costato molto, credo che la Juve abbia la sostenibilità e sappia bene cosa fa, l'ha dimostrato negli anni per reggere questo, probabilmente andrà via Pogba, che comunque sappiamo quanto porterà, al di là del fatto che poi magari prendesse meno di ingaggio, oppure il conto annuale fosse inferiore, eccetera, eccetera, però comunque saranno altri soldi che entrano nella società. Io penso che tecnicamente non sia un grande dubbio. Poi c'è, cioè, tutto può cadere, però. Che rumore era? Attentato. Sì, non l'ho capito neanche io, per questo mi sono fermato. Io è il terzo giorno che ricevo questo messaggio: rivincita Napoli, Juve in finale di Coppa dei Campioni e Higuain che sbaglia a rigore decisivo, scrive Fabio, che ovviamente non è tifoso juventino. Boris Sollazzo, esprimi a Zampini le tue perplessità su Higuain alla Juventus, che sentiamo cosa ne pensa. So che ne hai. Ma io penso più ai giocatori che devono arrivare, francamente. Adesso faccio fatica a sentirti, ma comunque le tue perplessità le conosco. Massimo, secondo te Higuain nella Juventus riuscirà a ripetere le stagioni che ha fatto Napoli? Non dimentichiamo che nelle prime due con Benitez segnò 17-18 gol, un buon numero, ma non i 36 che ha segnato nell'ultima stagione. No, secondo me no, sicuramente non ripeterà il 36, se questa è la domanda, ma probabilmente non l'avrebbe ripetuto neanche nel lavoro di Sarri, che gioca tutto per lui. Quindi no, io non mi aspetto di Higuain 36 gol. Mi aspetterei 18-20 fatti nel momento giusto, al posto giusto e nei modi giusti. Lui, Higuain, è anche uno che sa inventarsi i gol col tiro da fuori, muovendosi, e Boris lo sa meglio di tutti. Quindi insomma, tutto questo, ricordiamo che c'è Higuain, nell'insieme poi la Juve aggiunge tanti altri giocatori di grande qualità, qualcosa perde perché poi va riquadrato, Morata, certo sostituiti alla grande, però comunque erano giocatori importanti l'anno scorso. Ma tutto sommato io non credo che, anche se Higuain non si rivelasse uomo a 36 gol, la Juve ne potrebbe risentire così tanto. Sì, Juve più forte. Poniamo che vada via Pogba, che andrà via, perché a quei soldi, così come il Napoli non poteva dire di no, a prescindere dalla clausola rescissoria, sono denari che non si possono rifiutare. Poniamo 120, Pogba andrà via, un altro arriverà, ci sono diversi nomi, da Vizzera, Rakitic, cioè comunque tutti i giocatori di primo piano. Una Juventus più forte rispetto a quella dell'anno passato? Guarda, è una Juventus, io credo, più forte, ma non, diciamo, solo galattica, come dicono, come viene ora dipinta, il che è un po' pericoloso. Io temo un po' gli entusiasmi estivi che appartengono più ad altre tifoserie che a quella juventina, insomma, gli scudetti d'agosto e di luglio non ne abbiamo moltissime nel palmarès, mentre altre squadre ne hanno veramente tanti. E quindi sono un po' preoccupato. È una squadra più forte, perché comunque Dani Alves è un importante, però c'era Cuadrado comunque che faceva, anche se non nello stesso ruolo, era un'alternativa importante. Morata è stato uno davvero importante e ci sarà Higuain che è sicuramente superiore. Pogba, se partirà, verrà sostituito da uno che comunque non è Pogba, al di là del fatto che già Pjanic è un grandissimo rimpiazzo di Pogba. Quindi insomma è una squadra più forte, con moltissime alternative, in difesa è Benatia come primo cambio, davanti c'è anche Piazza oltre a Mandzukic. Esatto. Insomma è una squadra completissima, sì. È una squadra completissima, però non galattica rispetto all'anno scorso. Mentre ti faccio sentire Higuain, le prime parole da bianconero, cioè è tornato Boris Sollazzo, Higuain oggi all'arrivo. No, bueno, bellissima sensazione, sto felice di arrivare qui, bueno, speriamo, come ho detto prima, fare una grande annata. Abbiamo una squadra per farlo, una grande società e bueno, speriamo dare felicità ai tifosi. Bueno, speriamo. L'importante adesso è lavorare, è stare calmo e arrivare prima di tutto alla prima giornata di campionato della migliore maniera possibile. Capito Boris, Higuain felice. C'è campionato. Sono contento per lui. Contento per lui, sì. Sì, lo sarei anch'io con 70 milioni di euro lordi nei prossimi 5 anni, insomma. 7,5 in più gli hanno restituito anche i diritti d'immagine che erano di De Laurentiis. Sì, immagino che quanto l'abbiamo visto, insomma, quante sponsorizzazioni aveva prima. Questa dei diritti d'immagine è una favola, è una cosa che fanno in tantissimi fuori dall'Italia, però insomma anche su quello, come avete visto, sulla proposta Icardi non si è fatto molti problemi De Laurentiis a strappare. Le favole sul De Laurentiis di mercato sono meravigliose, insomma, perché i famosi contratti, per fortuna io l'ho pure visti, quindi i famosi contratti più lunghi di 40-50 pagine degli altri non sono veri, però insomma fa niente, poi il calciomercato è anche questo, è anche leggenda. No, per il resto io sulla Juventus non mi riguarda, perché è proprio un altro campionato, ormai siamo una Bundesliga in cui c'è un Bayern Monaco e poi tutte le fuori altre. Portata, quindi Massimo Zampini rifiuta lo scudetto di agosto, mentre dice che altri ne hanno diversi. Tu dici che di maggio. Sì, non avrà la Champions ad agosto, e questo lo sa pure lui, ma il fatto è che la Juve si è leggermente rafforzata, perché chiaramente, come ha fatto notare lui, finora ci sono dei cambi, in alcuni casi in meglio, in altri in peggio. Perché secondo me Pjanic Pogba è un cambio in peggio, anche se stimo molto Pjanic, mi sarebbe piaciuto averlo nella mia squadra, e però le altre, e quello è questo credo che la Juve abbia voluto fare, non tanto rinforzare se stessa ma indebolire le altre, insomma, come faceva fino alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, cioè comprava per fare in modo di non avere concorrenti in Italia. Certo, questo la aiuterà probabilmente anche a essere più fresca in Europa, insomma. Il Napoli per ora è ancora, secondo me, in corsa per il secondo posto, poi bisogna vedere che cosa succederà in questo mese, insomma. Io temo molto Milik, come sai vorrei Icardi, ma mi sembra che non ci siano grosse possibilità. Mi fa molto più piacere Tolisso, che ho seguito in questi 2 anni, e mi sembra un giocatore molto interessante. Non costa pochissimo, mi sembra 26. Ma sai, quando hai 90 milioni di euro, mi fanno molto ridere i napoletani che dicono ma per 60 milioni non lo dobbiamo prendere Icardi. Io vorrei far notare ai tifosi napoletani che non sono nostri i 90 che ha incassato De Laurentiis, e non saranno nostri neanche quelli che tiriamo fuori per Icardi, se li tiriamo fuori. È chiaro che di fronte a una valutazione monstre ci sta che, come hai fatto anche con Higuain, che veniva valutato allora 32-33 e tu l'hai pagato 40 per portartelo via, tu paghi 6-7 milioni di euro in più. Adesso De Laurentiis deve fare quello che ha detto al Corriere dello Sport, cioè deve costruire una grande squadra, non necessariamente per vincere lo scudetto, deve sfruttare questi soldi per programmare una squadra che possa crescere nei prossimi anni. Il Napoli deve ragionare, sempre parlando di Bundesliga, come il Borussia Dortmund. Sì. Quindi vendere bene e costruire nel tempo. Secondo me, se agirà bene già quest'anno, comunque secondi si potrà arrivare. È ovvio che primo sarebbe, ma neanche la mia di tifoseria a molti scudetti d'agosto nel carnet, insomma, in questo io e Zampini siamo molto vicini. Ah, va bene. Intanto la giornata di De Laurentiis, è andato a vedere l'allenamento a Di Maro, poi stava tornando in albergo, prima ci sono stati degli applausi per De Laurentiis, poi è arrivato un tifoso del Napoli che ha chiesto al presidente: ma presidente, acquisterà nuovi giocatori? E ha risposto De Laurentiis: ma che domanda del cazzo è questa? E poi su Higuain, chiamatelo Rubentino, ha ribattuto sorridendo De Laurentiis. Traffico, poi di nuovo una battuta con Massimo Zampini e Boris Sollazzo, uomo di televisione, uomo di cinema, e un risvolto curioso che apre nuovi scenari per tutti quanti. Riguarda Vandanara, la signora Icardi. Traffico. Hola Pipa, ¿cómo estás? Con este video quería darte la bienvenida. Espero que tu llegada nos ayude a todos a seguir ganando títulos como el año pasado y los años anteriores. Y espero que, bueno, que con tu llegada sea lo mejor para todos. Un abrazo grande. Tutti convocati. Allora, Massimo Zampini e Boris Sollazzo. Zampini, Sollazzo ti ha già incoronato campione d'Italia senza troppe discussioni, quindi ti prenderai lo scudetto di agosto, di cui non, dicevi non ne hai molti, ma chi ne ha molti? Tra parentesi ti domando. E poi quello di settembre, mi sembra legittimo questo pronostico, Massimo. Ma sì, devo dire, scherzi a parte, quest'anno il pronostico è legittimo, cioè la Juve ha preso era già fortissima, era già la più forte, ha preso tanti giochi, io non mi nascondo, non faccio scaramanzia in questo, so come se vinci 5 anni di fila, la fame, gli stimoli, eccetera, eccetera. L'anno scorso già abbiamo visto che partenza abbiamo avuto e poi siamo riusciti a vincerne 80 di fila, se no l'avremmo vinto già l'anno scorso. Io dico sempre che noi partiamo con Juve, Fiorentina, Lazio, Juve, Inter, Juve, prendiamo là. Insomma, se parti male non è che ogni anno poi ne recupererai 20. Una sola cosa rispetto a quello che ha detto Boris, non sono d'accordo sul fatto che ovviamente non conosco le strategie, perché compri la Juve, non credo che la Juve compri per indebolire, in primis perché è già, appunto, è già, e lo riconosce anche Boris, più forte dell'avversario. Secondo, non credo che vada a spendere 90, invece magari di 50, 60 altrove per indebolire il Napoli. Sono giocatori che ritengono straordinari, che possono davvero migliorare l'11 la squadra, e purtroppo Lewandowski non te lo danno, Suarez non te lo danno, Cavani, il Paris Saint Germain pure pare non te lo dia, e Higuain è una clausola. Io penso sia questo il vero motivo per cui la Juve. Sì, no, tu dici non è il Milan che prendeva De Napoli, come si ricorderà, esatto, Boris Sollazzo per toglierlo alla concorrenza, esatto. Io ho esatto, diversi messaggi per Sollazzo, che secondo Oscar D'Avelluno parla da uomo ferito. Sollazzo Ieruga, luglio-agosto è il vero divertimento, oppure si parla di 35 milioni per Milik, ma a me sembrano troppi. Insomma, ho tanti messaggi per Sollazzo, devo dire. Parli da uomo ferito. Ma parlo da uomo ferito, sono ferito, ma non lo nascondo, ma non dalla cessione di Higuain, perché se c'è una cosa che mi ha insegnato la gestione De Laurentiis è che ogni tipo ceduto ha portato a coppe, ha portato a giocatori più forti, quindi non ho ragione di non pensare che sia questo. Sono ferito perché chiaramente sono anche un tifoso, perché ero a Napoli Frosinone, perché ero a Napoli Arsenal, perché ho visto delle lacrime, perché ho visto un giocatore promettere amore, e sono un immobile romantico, nonostante questo sia calcio spettacolo e non sono disincantato come Zampini, però chiaramente mi è sembrato un modo un po' furfantesco di andarsene. Detto questo, insomma, se se ne va mia moglie in quella maniera mi dispero, non certo se se ne va Higuain, ma furfantesco però con 90 milioni, cioè non è che sia andato, sai, il Bayern Monaco strappa Lewandowski a zero al Borussia e uno dice Lewandowski ci hai tradito, che vai a zero là, qua ti arrivano 90 milioni e lui va alla Juventus, cioè io non ci vedo nulla, è furfantesco. Capisco il sentimento di delusione, questo sì, però per il resto vedo una trattativa limpida con una clausola messa dal presidente e dal giocatore, pagata, e lui che se ne va, cioè niente. Massimo, ieri parlando con Marino Bartoletti diceva è arrivato da mercenario o se n'è andato da mercenario, questo è parlare ma neanche mercenario, è un calciatore nato a Brest di origine argentina, che ha giocato anni in Real Madrid, è andato 3 anni a Napoli, ora ne farà magari 3-4 alla Juve, e a fine anno dirà grandi parole nei confronti di tutte le squadre. Non mi sembra una cosa proprio da furfante, cioè mi sembra una cosa di un calciatore professionista. Cosa diversa è che è nato là o che è stato davvero un simbolo di una città, di qualcosa, Totti mi si dice, ma grazie, Totti ha respirato Roma da quando c'ha 3 anni, non si può paragonare a Higuain. Higuain, con tutto l'amore per Napoli, che secondo me dimostrerà sempre a partire dalle prime dichiarazioni, e poi va alla Juventus per un'altra avventura, non c'è niente di strano. Ma guarda, io però dico semplicemente che Cavani non si è mai messo a cantare difendo la città o qualcosa di simile, voglio dire, a me non piace essere tanto preso in giro, questo è il punto. Poi per carità, voi avete avuto sempre molti giocatori, anzi sempre, ultimamente avete giocatori che sono andati, sono venuti perché avete fatto un altro tipo di lavoro, e probabilmente essere vincenti vuol dire anche questo. Per me il calcio è anche passione, anche amore, e quindi mi affeziono ai giocatori. Poi siete quelli che vincono a mani basse vendendo Zidane, io ci avrei sofferto, voglio dire. Sono due mentalità diverse, probabilmente. Scusa, Boris, non contesto la delusione o le emozioni o il sentirsi tradito, contesto il discorso dell'addio furfantesco oppure gli insulti che leggo in tanti profili. Però Massimo, onestamente, non si è visto nessun giocatore di quella portata fare visite mediche notturne, chiamare l'allenatore una settimana prima dicendo vengo a Di Maro, cioè, tutte cose che si poteva risparmiare. Un uomo di 29 anni poteva affrontarla con maggiore maturità, insomma. Sì, non, però Icardi, il capitano dell'Inter, sta trattando da una settimana con De Laurenti sotto contratto, senza clausola. Scommetto che sarà un vostro idolo, se arriverà. Ed è giusto così, è calcio professionistico, niente di più, niente di meno. No, idoli non esageriamo. Sarei molto contento perché, come ho detto, è un giocatore che secondo me è perfetto per le esigenze di Sarri. Ma conosco abbastanza il calcio mercato del Napoli per sapere che non verrà. Ecco, ragazzi, invece chiudiamo proprio così con la questione Icardi. Io so che Boris, tu l'altro giorno a questi microfoni hai lanciato un'altra idea che a me piaceva molto, mi intrigava molto, quella di Tevez più magari Balotelli. C'è qualcuno che ha suggerito anche Cassano nel pacchetto, così almeno si va direttamente al sanatorio ogni tanto. Però potrebbe essere, quella di Tevez potrebbe essere anche emotivamente la soluzione migliore. Non parlo di Morata, che pure sarebbe una soluzione emotivamente, oltre che tecnicamente, convincente. Però, quanto ai Icardi, Massimo Zampini da Uomo di Televisione, Boris Sollazzo, critico cinematografico, qui si apre una nuova frontiera e io rivendico il copyright di quest'idea, perché l'ho detta prima di De Laurentiis, non so se lui ce l'ha l'ha sentita oppure è venuta contemporaneamente anche a lui. Con Vandanara si parla anche di cinepanettoni, si parla anche di ruoli in programmi televisivi e qui si apre probabilmente una nuova era del mercato mondiale, ragazzi. Massimo. Sì, per carità, ora io sono d'accordo con Boris che Icardi sia un giocatore, a parte un ottimo giocatore che mi sarebbe piaciuto anche alla Juve e che al Napoli farebbe grandissime cose con tanti anni meno Higuain, premessa calcistica. Nel resto non vedo l'ora di leggere una recensione di Boris su Natale a Londra con Icardi e Vandanara per capire se mantiene quell'indipendenza di giudizio che ha sempre o lo riterrà un capolavoro. Il capolavoro totale mondiale. Ma assolutamente Vandanara secondo me merita già l'Oscar. Detto questo, però vi devo deludere, l'idea ottima di gente che ho avuto anch'io appena ho pensato ai Icardi pare non sia vera, cioè pare che non ci sia mai stata questa offerta. E questo lo dico anche perché sono amico del regista dei film di Natali e di Aurelio, che è Wolfgang De Biasi, che è un grande regista che sta cambiando secondo me i film natalizi e che diciamo non sarebbe stato molto aiutato dalla presenza della signora Icardi di Vandanara. Quindi dico, per Volfango mi auguro di no, per me sì, perché pur di far venire Icardi sarei disposto ad andare anch'io a fare ma si parla anche di un programma televisivo, la signora Icardi. Quello va bene, tanto la nostra TV mi sembra che sia abbastanza scarsa, insomma. possiamo anche sopportare una Nara in più, se abbiamo visto Belen possiamo vedere anche Vandanara, mi sembra che anche più carisma. Vabbè, grazie ragazzi, buon divertimento, grazie a Massimo Zampini, grazie a Boris Sollazzo, è sempre molto divertente. 800 24 00 24, il numero verde, Francesco da Forlì, Vittorio da Salerno. Francesco, buongiorno, dica. Buongiorno, grazie per la convocazione. A lei. Guardi, io sono un rossonero parecchio depresso in questo momento. Faccio fatica a darle torto, in tutta onestà. Sa, poi tra l'altro avrò letto anche oggi la notizia, un nuovo slittamento della conclusione con i cinesi, in questo caso su richiesta dei cinesi che devono sbloccare i fondi per pagare il Milan, e quindi si va ancora un po' per le lunghe, non sarà questa settimana, sarà magari la prossima chissà quando. Berlusconi sembra deciso, i cinesi adesso chiedono un po' più di tempo. Dica. Io infatti sono qui a chiederle qual era la sua idea in merito a questa situazione bizzarra della società rossonera, proprio per anche in luce della storia del Milan, vedere quasi una squadra così blasonata a lottare per la salvezza e poi constatare che le altre squadre si stanno rinforzando, la Juventus, i Higuain, il Napoli che sta pensando anche lui a grandi acquisti come Icardi, veramente sconsola. tantissimo. Ma c'è una differenza sostanziale, no, Francesco? Mi pare ci sia una differenza sostanziale alla voce denaro. Napoli ha appena incassato 90 milioni e comunque si trova in una condizione florida. La Juventus di soldi ne ha molti, il Milan torna alla vecchia politica dei parametri zero. Perché? Perché bambole non c'è una lira, perché soldi in tasca non ce ne sono, perché Berlusconi l'anno scorso ha tirato fuori 100 milioni, spesi come vi pare, cioè non benissimo, secondo me, però ha tirato fuori 100 milioni fidandosi delle promesse d'acquisto che poi non si sono concretizzate. Quest'anno sta vendendo, è convinto di vendere, però non vuol versare denaro, quindi la differenza mi sembra sostanziale, mi sembra stia tutta qui, no? Certo. E quindi si accontenti dei parametri zero, magari arriverà Arbelò, magari arriverà qualcun altro. Il Milan chiaramente ha bisogno di diversi giocatori, in particolare di un centrale difensivo, perché Alex via, MXS via, Zapata infortunato, rimane Romagnoli o lo clonano o un altro centrale difensivo, io credo in linea di massima serva, ma come urgenza è questo. Poi non poi per fare una squadra quantomeno competitiva a livello, non dico di Juventus ma di Roma, Napoli e Inter, ne servirebbero degli altri che in questa sessione di mercato non arriveranno, quindi non illudetevi. Vittorio, buongiorno. Buongiorno. Allora, Higuaín è Giuda? No, non è problema Higuaín, è... io volevo chiedere una cosa. Dica. Come mai che la società Sport Napoli non riesce a credere in Gabbiadini, cioè cerca un altro attaccante ma non crede in Gabbiadini? No, poi ma ci crede, non è vero, perché? Se ci credeva non cercava Gardi, non cercava qualche altro attaccante. Poi volevo chiedere, dato che anche la Juve c'è su Gabigol, perché il Napoli non accelera e lo prende lui, tanto 20 milioni su? Chi? Scusi, non Gabigol. E vorrei proporre un attaccante per il Napoli, Griezmann, dell'Atletico. Sì, Griezmann dell'Atletico è un signor giocatore, ma non è esattamente una prima punta. Non so quale possa essere la valutazione di Griezmann, né se l'Atletico Madrid voglia privarsi. Atletico Madrid che comunque ha suon dei risultati, che è il modello da seguire per tutti i club che non siano quelli seduti nei 7-8 seduti in ristorante da 100 euro. È il modello che andrebbe seguito. Quanto a Gabigol, giocatore da scoprire, io credo che il Napoli abbia bisogno di qualcosa di sicuro. Io credo che il Napoli conti su, ma l'hanno detto anche, conti su Gabbiadini, che a mio avviso continua, nonostante il rendimento dell'anno passato, non essere esattamente una prima punta. Però è altrettanto evidente che il Napoli, anche per ragioni di immagine, di cuore, di sentimento, di sponsor, di credibilità, ha bisogno di investire quei soldi e di mettere al centro dell'attacco qualcuno che offra delle garanzie, sia esso Icardi, Tevez, Morata è obiettivo irraggiungibile, l'ha detto lo stesso Zidane, blindato dal Real Madrid. Si parla di Milik, che comunque è un giocatore che avrebbe bisogno, buon giocatore, abbiamo visto gli europei, ma arriva dall'Ajax, avrebbe bisogno comunque di un periodo di adattamento, quindi della serie pronto non subito, però certamente il Napoli, per usare le parole di De Laurentiis, per parafrasare il De Laurentiis di oggi, qualcosa farà. Ci fermiamo per la borsa, torniamo. Prima svolta della partita, ancora lunga però. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Si ricomincia. Tutti convocati. Siete sempre tutti convocati, eh? 800240024, non ci fermiamo mai per tutta l'estate. Anzi, vi ricordo che per il periodo olimpico, e quindi a partire da lunedì, perché noi le nostre Olimpiadi, le Olimpiadi di Radio 24 cominciano qualche giorno prima rispetto al 5, cerimonia di apertura, giusto per entrare in clima, allora avremo due appuntamenti quotidiani, uno con il normale Tutti Convocati, con mezz'ora in meno dalle 14 alle 15, perché poi dobbiamo prepararci per la grande kermesse del tardo pomeriggio dalle 18 alle 20, in cui parleremo con voi e di tutto quello che volete. Olimpiadi e dintorni, ma magari anche calcio, magari anche mercato, perché siamo sempre qui sul pezzo. 800240024 il numero verde, c'è chi sottolinea: ma scusa, non avete ancora capito che l'Inter non vende Icardi? Sì, noi l'abbiamo capito, ma evidentemente il signor De Laurentiis ancora deve convincersi, visto che ha incontrato più volte la signora Icardi e tutto il suo entourage. Stefano, buongiorno. Pronto? Pronto. Mi sente? Sì. Buonasera, vorrei farle i complimenti della trasmissione, perché non ci fate dimenticare tante volte che il calcio è solo un gioco, tanti se ma lo dimenticano. Certo, ed è sbagliato, è un gioco d'estate, è un gioco d'inverno, è un divertimento, è un passatempo. Va preso così per noi comuni mortali, poi il resto che c'è dietro è tutto in più. Per quanto riguarda gli dei dell'Olimpo, la pensino un po' come ne hanno voglia loro, lei dice. Sì. Gli poi vorrei dire un paio di cose sulla questione della cessione di Higuain alla Juve. Prima di tutto vorrei dire che noi tifosi ultimamente ci prendono un po' in giro, a noi tifosi napoletani, che abbiamo perso Higuain. Io vorrei dire... Senta, glielo faccio sentire attraverso la televisione, stia lì. Una grande annata, abbiamo una squadra per farlo, una grande società e speriamo dare felicità ai tifosi. I tifosi hanno un sogno, la società un obiettivo, la Champions League. Bueno, speriamo. L'importante adesso è lavorare, stare calmo e arrivare prima di tutto alla prima giornata di campionato della migliore maniera possibile. Bueno, l'ho conosciuto prima di venire qui, dalla nazionale abbiamo un'amicizia e bueno, adesso felice di stare con lui, no? Mi ha detto che è una grande squadra, una grande famiglia e che mi troverò benissimo qua. Un saluto, grazie per venire a trovarmi e bueno, speriamo fare grande cosa quest'anno. Questo Higuain l'abbiamo sentito prima, me lo faccio risentire, tanto che passava di lì in televisione davanti a 1000 microfoni con la magliettina gialla d'ordinanza, quella dell'allenamento della Juventus. Stefano, le ho fatto del male? Aveva ragionissima Higuain, ognuno ha i suoi sogni, noi italiani abbiamo il sogno di estinguere il mutuo, lui di vincere la Champions. Bravissimo. Un paio di cose vorrei dire sui juventini, no? Sì. Io vado in giro col camion e spesso e volentieri, sai, gongolano un po' che abbiamo perso Higuain, vorrei dire... ai nostri amici juventini, orfani di patria li chiamo io. Vorrei dire che a Napoli gli anni 90 è andato via Diego, è andato via gratis. Nel 2016 può andare via anche Higuain per 90 milioni, credo che sia giustissimo così e noi siamo solo contenti. Se fossi De Laurentiis farei una cosa: terrei 90 milioni, darei una possibilità a Gabbiadini e con i 90 milioni li metterei in un bel salvadanaio e farei una cosa del calcio per i tifosi napoletani, che almeno uno stadio decente come pubblico lo meritano. Io vi ringrazio e grazie, vi faccio i complimenti a lei, per la Stefano, trasmissione. Complimenti a lei, è stato molto simpatico. Quella dello stadio è una questione annosa, non credo che sia sufficiente mettere quei 90 milioni nel salvadanaio, credo che invece al di là di Gabbiadini debba rinforzare la squadra, cosa che farà molto più prosaicamente e banalmente. Quanto allo stadio, sappiamo benissimo che in Italia è molto più semplice veder cambiare 10 volte il governo che non vedere uno stadio nuovo, quindi questo mi sembra un fatto acclarato. Dunque continuiamo con Massimiliano, 800 24 00 24. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise De Falzoni in redazione, non l'ho detto prima, lo dico ora, lo dico sempre. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso del Napoli e un saluto a lei, a Pardo e a Stollato. Allora, io dico due cose. A noi non dà fastidio per quello che ha fatto, a noi ha dato fastidio il fatto che si è fatto le visite di nascosto in Spagna. E vorrei dire al giornalista della Juventus: se Higuain avesse avuto dei problemi fisici, cosa avreste fatto? Secondariamente, Cavani e Lavezzi sono andati via da signori, non sono andati via come dei ladri. Hanno accettato di andare via, ma andare all'estero per non fare comunque un torto ai tifosi del Napoli. Quindi Higuain si è comportato come un ladro, e quando sento dire adesso che in una famiglia si dovrebbe vergognare, perché a Napoli è stato trattato come se fosse in una famiglia. Allora, come io preferisco dire che, come ha detto ieri Marino Bartoletti, che è arrivato da mercenario e se n'è andato da mercenario. Se volete essere più delicati, potete dire da professionista. Certamente ha ferito i tifosi del Napoli. È una vicenda diversa rispetto a quella di Lavezzi e di Cavani, perché quelle cessioni furono concordate da De Laurentiis con largo anticipo, cioè con un grosso modo un anno di anticipo sul suo yacht, attraverso vari incontri che poi sono stati, insomma, resi pubblici, no? Quindi c'era un accordo: stai qui ancora una stagione e poi si va via, poi facciamo l'affare. Con Higuain invece è stata una trattativa diversa, ma non so se poteva andare altrimenti. Io concordo con, tornando a ieri, con Marino Bartoletti invece sul fatto che Higuain, al di là dei cori, al di là del battere le mani sotto la curva, del saltare, come fa ogni giocatore, non dimentichiamo che un campo di calcio non è un ufficio postale o un ufficio bancario, quindi saltano fuori le emozioni. Però al di là di quello, se consideriamo l'intera storia di Higuain al Napoli, mi sembra sia stata un po' frigida, soprattutto nelle prime due stagioni. Cioè, non ho letto quell'amore viscerale che puoi leggere anche negli occhi di altri giocatori. Tancredi Palmeri, buonasera, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Ewin, dunque, allora, ieri Tancredi Palmeri, dovete sapere, ha partecipato, uomo dalle mille risorse, ha partecipato telefonicamente a uno show di una TV argentina in cui era ospite la signora Vandanara, la signora Icardi, giusto? Allora, più o meno, praticamente un po' come la vita in diretta argentina, quindi il contenitore delle 16. Sì. Sì, io dicevo, ma che vogliono questi da me? Sì. Però in verità, più che parlare di Cardi, vogliono parlare ovviamente di Vandanara, perché è un personaggio, è in Argentina, e per cui si è parlato del suo ruolo di procuratrice. Altro. Lei non era ospite, ma lei era stata avvisata che si sarebbe parlato di lei, evidentemente. Mm. Perché durante la trasmissione era in contatto con il presentatore e mentre parlavamo interagiva con quello che noi dicevamo. Ah. Io ovviamente poi per certezza ho detto: puoi girarmi gli screenshot dei messaggi che ti ha inviato Wanda per essere sicuro, insomma, prima di... ed effettivamente mi hanno girato poi i messaggi che lei gli aveva mandato in tempo reale, e quando poi ho twittato quello che lei gli aveva detto, lei stessa ha cliccato favorito sui tweet, quindi praticamente così si fa il mercato anche nel 2016. Sì, così si comincia a fare il mercato nel 2016, perché dicevo prima, si apre un nuovo fronte, no? Quello della moglie subretta agente del giocatore, che dice: va bene, nel pacchetto mettiamo questi soldi per mio marito, quei soldi per l'Inter, e faccio il piacere di accettarlo, se no magari questo qui lo convinco io in un modo o nell'altro a farsi sentire in società, anche se l'Inter lo ha blindato, quindi rimaniamo su quella linea. Però intanto gli incontri continuano con i vari social network, eccetera. Allora, questo per l'Inter, questo per mio marito e questo per me. Prima Sollazzo mi diceva: non sarà il Cinepanettone, ma sarà la partecipazione ad un programma televisivo. Comunque un'offerta di questo tipo. La versione di Wanda, sì. È che De Laurentiis le ha offerto una parte nel film di Natale, Natale a Londra, però lei ha rifiutato perché sarebbe voluto dire trasferirsi a breve a Londra, e lei non lo può fare nella situazione in cui è in questo momento, perché in verità il film che esce a Natale viene girato di solito proprio ad agosto. Sì. Quindi ovviamente non può essere la parte principale, però, perché non è che dopo che è scritturato un'attrice. Guarda Tancredi, però c'è Paolo che suggerisce un altro titolo, magari si può replicare: Tre uomini e una Wanda. Non bellissimo, è male, non è male. Mi sembra Paolo, più un titolo di male. Un altro genere, devo dire, però sì, va benissimo. Non fare malizioso: tre uomini e una gamba, tre uomini e una Wanda, tre uomini e quello che volete voi. E poi le altre proposte che ha fatto sono: a diventare socio della società d'immagine che curerebbe i diritti d'immagine di Mauro, sì. Icardi. E poi le ha detto: è un programma, letteralmente, questo dal messaggio di Wanda, un programma diario, che vuol dire giornaliero, sulla TV italiana. E io sono stato, siccome quando ho scritto un programma TV la gente mi diceva sì, si parlava dei tiki-taka, io poi sono andato a vedere il messaggio e non mi ero accorto che aveva scritto diario, che vuol dire giornaliero, quindi sicuramente non tiki-taka, ma soprattutto ero là che mi spremevo le meningi e dicevo: dunque, tre reti nazionali sono nazionali, sono pubbliche, tre sono del presidente del Milan, finora almeno, Berlusconi, una è il presidente del Torino, Cairo, De Laurentiis, su cosa ascendente tale da poter proporre un programma televisivo? Dimmelo tu. Sì. non lo so, alcuni proponevano Telecapri, altri proponevano Scanala in avanti nel decoder e troverai, però non mi sono avventurato. Ma la radio no, se no la invitiamo a Radio 24, magari ci sono certi che hanno la faccia da radio, certi hanno la faccia da TV. Io e te abbiamo la faccia da radio, caro. Io e te abbiamo la faccia da un'altra cosa. Allora stai lì che ci fermiamo un attimo per il traffico, se no stiamo degenerando. 800 24 00 24 è il numero verde. Tutti convocati. Tutti convocati. Paul Pogba no es un jugador todavía de Madrid. Entonces no podemos hablar de lo que va a pasar. Ahora no es el momento de hablar de eso para mí, porque es le interesa de Pogba, todos los clubes lo tienen, ¿sabes? Es un jugador importante, es un gran jugador. Y siempre tú, cuando te llamas el Real Madrid, siempre quieres a los mejores. Pero ahora no te puedes ir, porque tenemos que respetar algunas cosas de, bueno, que jugador. Y es jugador de la Juventus y hoy no te puedo decir nada, ¿sabes? Questo era Zidane che dice, come fa a non interessarci Pogba? Quindi Real Madrid che prova timidamente a incanalarsi con una trattativa che però mi sembra destinata in un'altra direzione. I nostri ascoltatori Tancredi Palmeri sono meravigliosi, perché mi stanno proponendo diversi titoli per un prossimo film che potrebbe vedere protagonista la signora Wanda Nara Icardi. Chi propone un remake di Un pesce di nome Wanda, oppure chi propone che era un gran film peraltro, adesso Jamie Lee Curtis, manca John Cleese, però vabbè, manca John Cleese, Jamie Lee Curtis altra cosa secondo me, rispetto alla signora, alla bionda signora. Chi propone come Bruno un procuratore di nome Wanda, chi come Andrea da Pinerolo scrive Wanda Nara in televisione, quindi ricomincia Colpo Grosso, grande De Laurentiis. E vabbè, qui poi prendiamo una deriva che poi non posso aggiungerti altro. Se vuoi ti mando gli screenshot. Sì, cosa? Il remake, io proporrei il remake del film con Dustin Hoffman e Matthew Broderick, non ricordo il terzo, Sean Connery, Affari di famiglia. Va bene, accettato anche questo suggerimento. Prima di tornare agli ascoltatori, dimmi cosa fa Pogba secondo te. Questo interesse del Real Madrid sta solo nei sogni di Zidane, e vedi l'affare chiuso non appena lo United staccherà l'assegno voluto dalla Juventus, cosa che secondo me accadrà, oppure vedi un Real Madrid che si insinua in questa trattativa all'ultimo istante? Allora, andiamo con i fatti e poi ti do l'opinione. I fatti sono che il Manchester United è a 10 milioni di euro di distanza dalla cifra che serve per comprare Pogba. Quando devi spenderne 130, 10 non sono tantissimi. Detto ciò, però, le parole di Zidane, come senti, non sembrano quelle di uno che prova a fare un timido tentativo in una trattativa dove mancano solo 10 milioni in un totale di 140. Sono le parole di uno che dice vediamo, lasciateci lavorare. Perché? Perché il tentativo di Real Madrid è tutt'altro che timido. Mane e sera Zidane sta facendo attività pesante di lobbying su Pogba. Pogba ha detto a Raiola che potendo scegliere sceglierebbe Real Madrid, potendo scegliere, ovviamente non è tra Real Madrid e San Giuseppese, è tra Real Madrid e Manchester United. Chiaro. E non esiste che Raiola regali 10 milioni di euro a qualcuno, questo non esiste proprio. È anche vero però che il trasferimento è di Pogba, quindi non è che può andare soltanto al Manchester United solo perché è l'unico che pagherebbe la commissione di Raiola, mentre Real Madrid non lo pagherebbe. Il Real Madrid sta tentando di ingarbugliare la situazione, soprattutto attraverso il giocatore, e prende tempo e il tempo passa, perché in una trattativa dove manca così poco, però manca questo poco da 7-10 giorni, è veramente poco quello che manca in relazione. comunque il Manchester United rimane non favorito ma estremamente favorito in questo momento. Però il Real Madrid giorno dopo giorno sta tentando di scavare una via, di scavare il tunnel, guadagnando tempo. Sì, di scavare il tunnel che passa sotto l'autostrada che lega Torino in questo momento a Manchester. Un'ultima cosa, Tancredi, esiste secondo te una possibilità che il Napoli prenda Tevez? Tevez? No, Tevez ieri ha detto che l'avevano contattato Napoli e Chelsea, che lui rimane. Lui, sai, è tornato per una situazione di cuore là al Boca. È vero che organizzativamente si trova non benissimo perché ogni due per tre c'è un mezzo problema, però è anche vero che lui sa, soprattutto, questo non si può dire, però mi dicono che la situazione atletica di Tevez non sia brillantissima rispetto a un anno fa, e lui sa benissimo che dovesse tornare dovrebbe recuperare e tenere la barra dritta per almeno una stagione, e forse gliel'ha data su Tevez, forse nemmeno gli va più. Grazie Tancredi, ti saluto con altri due titoli. A qualcuno piace Vanda e non Jerry Maguire ma Jerry McVanda. Questi altri due titoli proposti. Li stiamo scrivendo tutti e poi mandiamo una mail a De Laurentiis. Grazie, un abbraccio. A voi ragazzi. Ciao, ciao Tancredi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo chiedere solo una cosa a lei che è molto informata. Il fatto che sto sentendo che il Napoli c'è molto scorretto sul fatto che sta contrattando con Icardi all'insaputa dell'Inter. Non tanto all'insaputa, perché l'Inter ha ricevuto una richiesta. Infatti, ma non è più brutto? C'è una domanda. Che il Napoli ha saputo sabato mattina che Higuain, che in quel momento ancora la clausola non era pagata, aveva fatto già le visite mediche per la Juve a Madrid. Penso che è una cosa più strana questa, no? Ciao Giuseppe, ma insomma, più strana questa, più strana quell'altra. Chiaro che non avesse pagato la clausola decisoria, le visite mediche le poteva giusto fare per capire se aveva la tonsillite o no, se aveva fatto troppi bagni o aveva preso un colpo di sole. L'accordo con il Napoli risale a prima di quello. La Juventus ha detto paghiamo la clausola recessoria, l'affare era già fatto, mi sembra una situazione non dissimile, anzi diversa da un certo punto di vista. Queste due trattative si differenziano da un certo punto di vista. Nel caso di Higuain c'era una clausola fissata dal Napoli, nel caso di Icardi non c'è nessuna clausola fissata dall'Inter. In entrambi i casi si è andati a trattare giocatori sotto contratto, anche con l'Inter nulla di nascosto, perché lo stesso Ausilio, l'abbiamo sentito nei giorni scorsi, ha detto sì, ci è arrivata una proposta del Napoli per Mauro Icardi, ma noi non lo vediamo né per quei soldi né per altri. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. A lei. Io dovrei fare prima un appello, poi devo dire solo due cose, no? Sì. Per favore fate tornare Marino Bartoletti, che non ce la faccio più a supportare la Ferrari, per cortesia. Non ce la fa più a supportare? Ah, ma sta parlando di Rai? Ma guarda, lì non abbiamo grandi titoli. Non è possibile. Marino Bartoletti, che è la tanto lo sentiamo. Lei, con Marino Bartoletti sfonda una porta aperta. Noi abbiamo il privilegio di avere dei contatti frequenti con Marino Bartoletti. Quindi su Radio 24 lo trova. Quanto al resto, io alzo le mani, Gianni. Poi l'unica trasmissione di calcio che ascolto è questa qua, perché è molto tranquilla, serena, rispondete a tutti per bene, insomma, va bene così. Grazie. C'è una cosa che mi è rimasta in gola per quanto riguarda la nazionale, no? Ah. Io credo che Conte abbia fatto un errore quando erano sull'1-1, perché avrebbe potuto chiudere la partita se metteva dentro Insigne e Al-Shaarawy. E poi avrei rischiato 20 minuti in Romano, Barbarossa. No, secondo me ha fatto un errore. Poi magari sbaglierò anche. No, ma non abbiamo la controprova, Gianni. È un discorso che abbiamo fatto a lungo. Ovviamente ci stiamo riferendo al momento in cui l'Italia era sull'1-1 con la Germania. Insigne è entrato molto tardi. È un discorso che abbiamo fatto molte volte. Possiamo pensarla così, legittimamente, però non abbiamo né avremo mai la controprova, e dunque il dubbio ci resterà per l'eternità. Matteo dalla provincia di Modena, dubbi, grandi sì. misteri irrisolti. Sì, salve, no, trovo salve. Assurdo chiamare Higuain ladro e traditore quando per 4 anni ha dato tutto alla maglia del Napoli e ricevuto tanto. Poi ha avuto un'occasione migliore e cosa doveva fare? Rimanere a Napoli, arrivare secondo a 20 punti, non passare il gironcino della Champions contro una possibilità di stipendio raddoppiato, scudetto quasi sicuro e possibilità di arrivare in finale in Champions. Sì, però lei capisce che dal punto di vista del tifoso napoletano Higuain era qualcosa in più di un giocatore. Questo non faccio fatica a capirlo. Poi c'è chi lo vede, l'ha visto fuggire come un ladro, chi lo chiama Rubentino come ha fatto oggi De Laurentiis, chi ha definito Higuain mercenario quando è arrivato e quando se n'è andato. Sono giocatori professionisti, è chiaro che nel momento in cui giocano per una squadra possono anche legittimamente eccitarsi, emozionarsi, andare a battere le mani sotto la curva. Poi però bisogna capire che questo vale anche per Pogba, così come potrebbe valere per Bonucci, che insomma mi risulta siano ancora in piedi quelle offerte elevatissime per un giocatore di 30 anni o quasi 30 anni da parte di Conte e del Chelsea. Insomma, poi ognuno la vede con gli occhi del tifo e con gli occhi del cuore. Legittimamente i tifosi del Napoli si sentono traditi da Higuain e non mancheranno di ricordarglielo la prima volta che Higuain con la maglia bianconera metterà il piede nel San Paolo. A dopo, ci sentiamo dopo GR. Solo chiacchiere, solo mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati. Tutti convocati. Che dire, arrieccici. Convocati. Tutti convocati, 800240024. Io ho altri titoli, soprattutto via WhatsApp 349-238-6666, come il diavolo veste Evanda, questo da Emiliano da Lucca. Stiamo ovviamente cercando un nuovo titolo per il Cinepanettone, non sia Natale a Londra, perché questo lo girano ad agosto e non ci sono i tempi tecnici per stipulare il doppio contratto, che chissà mai se ci sarà. Alessandro Pasini, Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno Carlo, buongiorno Ciao. A tutti. E qui vorrei Ciao. Virare da, insomma, rimanere in ambito Inter, ma virare il discorso su Mancini. Allora, ieri c'è stato questo incontro, non c'era il numero uno di Suning per la delusione di Mancini, c'erano suoi emissari, c'era Toir, ma mi pare che questo incontro abbia prodotto la classica fumata grigia o fumata nera. Dimmi tu, quale colore? Sì, no, la situazione è ancora molto, molto complessa. Potrei dirti che, come si dice quando nulla è chiaro, è fluida. Nello stesso tempo è in fase di stallo, in realtà. Alla fine, alla cena, il mancio non è andato, non c'è stato, ma questo non è il problema. Il problema è che bisogna venire a una conclusione anche abbastanza in fretta. I segnali che arrivano dagli Stati Uniti sono di un piccolo avvicinamento, no? Un piccolo rasserenamento della situazione, che secondo me non dipende tanto dalle parole di Toir, che abbiamo letto tutti la notte, poi questa mattina, che sono un po' di circostanza, no? Faremo acquisti, faremo un grande club, insomma è quello che dice da sempre. Sì. Ma in questo caso però da azionista di minoranza. Sì, sì, beh certo, da presidente senza portafoglio, senza portafoglio. Lo chiamiamo... Da quando è arrivato Suning, chiaro, però non dimentichiamo che lui perlomeno ha la delega, quindi ha una delega a parlare, che parla, però insomma certo sono frasi di circostanza. Invece un pochino più consistente è secondo me in questo scenario l'intervento diretto che ha fatto Pier Ausilio, che come forse sappiamo è andato a New York, no? È arrivato anche lui per questo grande meeting dei manager dell'Inter in America, insomma, ha dato delle garanzie a Mancini sugli acquisti e sul mercato. Ora vedremo se questo basterà a placare l'insoddisfazione dell'allenatore, che dal mio punto di vista non dipende soltanto dal mercato e dal presunto ruolo, no, poi di manager all'inglese di cui si parla, ma che ha insomma anche un bel punto di una bella scintilla anche nella questione del rinnovo, certo, che insomma non arriva e che la società gli vuole dare al momento, ecco. Perciò, insomma, questi sono nodi ancora da sciogliere. Certo, certo, che il mercato attuale, per quanto mi riguarda, è abbastanza positivo per l'Inter, e quindi non so quanto legittimi poi una presa di posizione così dura come quella dell'allenatore. Però è evidente che ci sono tante sfumature, anche poi i rapporti personali, no? Che noi forse non conosciamo del tutto tra due le parti. Quindi la situazione in questo momento è questa. Sì, la sensazione, ne parlavamo ieri anche con Luigi Garlando, è che Mancini sia stato un po' lasciato solo, al di là di un ruolo che è più circoscritto a quello dell'allenatore punto e basta, con un contratto che non viene rinnovato, prolungato. Possiamo anche dire legittimamente che i nuovi proprietari arrivano, vogliono capirci di più, vogliono... questo può essere legittimo anche da parte della nuova proprietà. È chiaro che hai un allenatore che è abituato a lavorare in una certa maniera, quantomeno dovresti dirgli: va bene, adesso il tuo ruolo è questo, quello che faremo sul mercato è quest'altro, e arrivare ad una soluzione, perché a quest'ora siamo a 20 giorni dall'inizio del campionato, poco più, Sì, sono d'accordo, guarda, intanto è giusto quello che dici, lui si sente solo, però devo dire che la società, anche così ascoltandola in questi giorni, le varie fonti interne, ufficiali e non ufficiali, per quanto appaia non proprio, come dire, coesa, no? E per quanto appaia ancora un po' disorganizzata, che può essere fisiologico visto il periodo di transizione, però le idee le esprime in maniera chiara, come dicevo prima, no rinnovo, paletti del fair play finanziario, che questi sono una norma, non è una cosa a cui puoi aderire o no, ma al momento certo, ci sono, eccetera, eccetera. E quindi effettivamente lei ha una posizione chiara. Ora bisogna vedere Mancini anche eventualmente che tipo di promesse può aver avuto prima, magari dalla gestione Tuir, eccetera. Però tutta la situazione a me pare paradossale, perché come ti dicevo, poi in fondo il mercato dell'Inter, sì, a mio avviso non sta, diciamo, intanto non sta dormendo, e se vogliamo, Juve a parte, che naturalmente giocherà su un altro pianeta, pensiamo certo, tutti, certo. Mi sembra che sia più avanzato di quello delle altre potenziali rivali per la Champions. Oggi ho visto un intervento, secondo me molto condivisibile, di Bergomi, che sostiene che questa Inter, così com'è, possa lottare per la Champions. E questo per quanto vale, cioè niente, è anche il mio pensiero. Bisogna vedere se lo pensa Mancini, che sì, come dici bene tu, è sempre abituato, no, ad avere campioni, ad avere scelte, a chiedere se un giocatore non va bene, a cambiarlo abbastanza spesso. Sì. L'Inter nella sua ultima gestione ha anche una storia di giocatori bruciati, certo, molto, molto, e questo può anche pesare, può anche pesare, il pregresso può pesare, perché... Ma naturalmente l'anno scorso è stata un'annata di fronte, no? Lo ricordiamo, primo fino a Natale e poi il tracollo, quindi legittimamente un'azienda, una società può avere la voglia di monitorarti, come si usa dire. Del resto Tuir aveva già fatto delle critiche velate a Mancini anche già l'anno scorso, ma insomma in una dimensione di dialogo e non di polle, però aveva detto, ma vediamo, insomma, perché comunque, eccetera, eccetera. Io credo che se le parti, sai come si usa dire oggi, no? Fanno un passo indietro o un passo avanti, insomma, chiamiamolo come vogliamo, si possa arrivare, anche perché non vedo come un altro allenatore possa... È vero che insomma siamo ancora forse in tempo, meglio adesso che a dicembre, però insomma io credo che sia un po' tardi, la stagione è alle porte, e la squadra, a mio avviso, se rimarrà Icardi come pare, se arriverà Candreva come pare ormai fatta, sì, e se arriverà magari un altro innesto e non andranno davvero via i big, insomma a, sì, questo, certo, punto, ma come dire, a questo punto ci del lavori, mercato sì, ci lavori perché... Mancini, no? Ci lavori, sì, Mancini. Sì, sì. No, ecco, anche perché questo, essendo tutti in divenire, possiamo fare solo, tu di pole position e grill di partenza te ne intendi, con la Roma che è ancora incompleta, con il Napoli che ha appena venduto Higuain, e si parla oggi di Milik, affare più o meno fatto per 20 milioni più 5 di bonus dall'Ajax. Sì, si sì, parla di Tolisso, però sono ancora tutte squadre incomplete. Tu hai ragione nel dire che quella che più ha un volto compiuto potrebbe proprio essere l'Inter in questo momento. Ti faccio una domanda maliziosa. Dimmi. Quanto conta ancora Moratti negli sviluppi della situazione nerazzurra? Secondo te è impressione, perché possiamo avere solo impressioni. Ma guarda, magari. Questo una domanda interessante ed è uno dei temi chiave, secondo me, di tutta. Ci sono alcuni nodi di questa vicenda che più o meno navigano sotto, per esempio anche quello di Zanetti, ma restando a Moratti, conta, secondo me conta ancora. Lui a volte si chiama fuori, a volte dice tornerei, sappiamo che avrebbe un cavallo nel caso del sostituto che sarebbe Leonardo, ma lui insomma anche questo lo nega. Secondo me conta comunque, conta perché è Moratti e conta perché insomma più d'uno fra gli osservatori, fra tutti coloro che seguiamo l'Inter e forse anche fra molti tifosi che lo spererebbero, pensa che Moratti potrà rientrare al momento in cui Tohir lascerà la scena e Suning avrà anche bisogno, perché ne avrà bisogno, no? di qualcuno, non solo di immagine, insomma, sì, che sappia, conosca, eccetera, e che possa, il che insomma, potrebbe anche coronare l'idea di tornare senza dover più sborsare, no? In fondo è il sogno di tutti poter comandare con i soldi degli altri, scegliere con i soldi degli altri. Cioè, che poi, se possiamo dire, nel suo caso sarebbe forse il degno risarcimento, come dire, no? Etico, morale, dopo quello che invece ha speso e sappiamo. Quindi nel suo caso sarebbe accettabile. Guarda, a parte le battute o l'ironia, però io credo che lui conti molto e dobbiamo ancora aspettarci chissà, magari qualcosa di importante. Del resto lui stesso non lo nega, insomma. Anche se insomma sì, questo ruolo da Richelieu nell'ombra un po' gli piace, sì. Secondo me come no. Dai, il problema però è che poi ci venga chiarezza, perché come ti dicevo anche Zanetti per esempio è un ruolo da capire. Non ho visto grande appoggio in questi giorni, se non proprio di facciata, Mancini, invece ho visto no, ma un giorno arriverà Simeone, ecco, tutte queste cose secondo me non aiutano. Non aiutano, ma sai, Alessandro, ne parlavo ieri e nessuno può togliermi la mia convinzione. Cioè, io fossi stato il signor Suning, prima mossa che faccio quando arrivo è prendere un plenipotenziario che sia a conoscenza del calcio italiano, del calcio mondiale, delle dinamiche del calcio italiano e del calcio mondiale, e metterlo lì come mio rappresentante plenipotenziario che rende conto a me e che e al quale la squadra intera, allenatore compreso, deve rendere conto. Ieri facevo il nome di Leonardo, vuoi fare quello di Moratti, facciamo quello di Moratti, facciamo i nomi che vuoi, però un plenipotenziario che rappresenti la proprietà e che però sia ampiamente riconoscibile da tutti gli attori del gioco. Questa sarebbe la prima mossa che io farei. Purtroppo non lo sono, se fossi il miliardario cinese di turno. Ecco, questo ora è quello idea. Che per ora lui ha individuato Tohir, il management di Tohir. Ho capito, ma Tohir non è che sia stato il presidente indimenticabile dal punto di vista calcistico. Il quale Tohir, peraltro, insomma, continua anche ad avere un interesse, voglio dire, anche personale, a mantenere un po', cioè a risolvere i conti, eccetera, perché come sappiamo ha anche una partecipazione, quindi insomma c'è anche un'eventuale aggressività di mercato, magari non gli fa comodo. Ma al di là di questi aspetti, hai ragione, lui ha individuato Tohir, ma per esempio c'è un altro nodo curioso a mio avviso, perché insomma, come sappiamo, adesso tra l'altro oggi ricomincia, adesso è già ricominciato perché è mattina a New York, c'è questo manager meeting, no? Quello che impropriamente chiamiamo gli stati generali. Ecco, il grande capo non c'è, c'è il figlio, ci sono gli uomini operativi, questo indubbiamente non è che vuol dire che a lui non interessa, però no, anche questo, insomma, hai appena investito pesantemente, hai preso l'Inter, eccetera, anche questo, insomma, non è un bellissimo segnale, magari esserci avrebbe dato, però insomma io credo che adesso poi la situazione è talmente confusa che ogni piccolo aspetto viene enfatizzato. Enfatizzato. È un po', come posso dire, sono un po' cose da Inter, perché è un club che tradizionalmente ci ha abituato a tutto questo, anche nei momenti di calma, perché guarda, poi paradossalmente dicevamo prima del mercato, se guardi il Milan che insomma sta molto più in difficoltà sia dal punto di vista della chiarezza societaria che del mercato, eccetera, l'Inter dovrebbe in questo momento navigare serenamente, no? Lavorando sul campo e pensando a fare la stagione. Invece, siccome è l'Inter, laddove non ci sono problemi, qualcuno si va a cercare, no? qualche grano la si va a cercare. Io non credo a queste cose del DNA, dello spirito strano del club, però insomma purtroppo c'è una tendenza, secondo me, sana a complicarsi le cose. Sì, e per questo io diciamo, credo che i tifosi anche la pensino così, cioè fate chiarezza, perché non è il caso, ecco, insomma, visto che poi il campo, a mio avviso, invece, cioè sul campo si sta lavorando, ripeto, certo, con un mercato buono e a mio avviso delle prospettive. Poi certo, se l'obiettivo è vincere lo scudetto, allora partecipa più nessuno. No, ma lo scudetto l'abbiamo già assegnato, è il 27 di luglio, sappiamo già come andrà a finire questo film. A proposito di film, secondo Antonio Vandanara potrebbe recitare nel remake del Colore dei Soldi. Sto raccogliendo proposte, poi le gira De Laurentiis. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Abbraccio. Grazie, ciao, Alessandro Pasini, ciao, del Corriere della Sera. Raffaele, buongiorno, dica. Raffaele. Angelo. Buongiorno. Dunque, io sono un interista e sono sempre interista. Sì. Per me l'errore più grosso è stato 2 anni fa riportare Mancini all'Inter, e adesso stanno facendo un altro grosso errore a non vendere Icardi. Cioè, quando la persona deve andare via, sia Vanna Nara, sia Vanna Giovannina delle mie parti bresciane, sì, ma fuori dalle scatole, ma cosa fanno lì? Via. Facciamo giocare i giovani, tanto siamo una squadra di centro classifica, oltre non andiamo. Aspetti, non sono d'accordo. Sia con un allenatore che continua a piangersi, gli hanno comprato 22 giocatori, da 22 giocatori uno non ne ha fatto bravo, si sta lamentando di Condobia, di Perisic, ma di tutti, ma che stavano a fare l'Inter, fuori dalle scatole anche lui. Mi scusi il mio sfogo, ma sono veramente pieno le scatole dall'Inter. Ma lei posso dire una cosa, però lei... ha messo giù, era troppo furibondo il nostro amico Angelo dalla provincia di Brescia. No, secondo me è uno sfogo da legittimo ma da tifoso. In realtà l'Inter non vale la mezza classifica. Sono più d'accordo con Alessandro Pasini, che a questo punto del mercato, se mi sembra che l'Inter sia più compiuta e completa rispetto ad una Roma e ad un Napoli che si completeranno. Non so se sia possa essere allo stesso livello, ma non si può nemmeno dire, perché bisogna aspettare che il puzzle di mercato sia completato. Quanto alla cessione di Icardi, non sarei poi così d'accordo, perché hai un giocatore giovane che comunque è bravo, vede la porta, l'hai appena nominato capitano, hai appena cambiato proprietà. Credo che non sarebbe una grande idea, né dal punto di vista strettamente calcistico, anche perché poi Icardi dovreste andarlo a sostituire, e vedete bene anche a Napoli quali difficoltà ci siano nel reperire comunque centravanti di elevato livello in questo momento sul mercato europeo. Lo dovresti sostituire, e poi non sarebbe nemmeno una gran mossa dal punto di vista dell'immagine da parte di una nuova proprietà che arriva, investe un sacco di soldi e poi che fai? Lasci partire uno dei tuoi giocatori migliori che ha appena nominato capitano. Quanto alle altre mosse, cioè quelle dell'entourage di Icardi, mi sembra siano dettate più che altro dalla volontà di tirare il prezzo e di chiedere un nuovo adeguamento di un contratto che, ricordiamo, è stato adeguato già l'anno scorso. E a proposito di trattative un po' borderline, ci infilerei anche questa. Raffaele, buongiorno. Buongiorno signor Genta, finalmente ci sentiamo. Eccoci qui. No, niente, perché era caduta la linea prima. Sì. Comunque no, volevo solamente dire, io sono un tifoso del Napoli, ho già telefonato altre volte. No, volevo fare una piccola premessa su Higuain. Higuain, le ripeto, secondo me è un professionista, ed è giusto che ad un certo punto da professionista ragioni probabilmente in questo modo. Le volevo solamente dire che in effetti quando Higuain è arrivato a Napoli, come lei faceva notare diciamo qualche anno fa, non è che abbia disputato dei grandissimi campionati, perché probabilmente non aveva trovato né l'allenatore né tantomeno praticamente il clima adatto. Ecco, con Sarri è riuscito veramente a dare un'identità a questo giocatore. Ha giocato la stagione migliore, semplicemente la miglior stagione in carriera, sì. Esatto, la miglior stagione in carriera. Per cui quello che voglio dire sostanzialmente, probabilmente sì, sicuramente è un grandissimo giocatore Higuain, però non metto in dubbio anche che ha bisogno di un clima favorevole, per cui non è detto che poi a Torino, io glielo auguro onestamente, però non è detto che a Torino riesca a trovare praticamente tutte quelle premesse che ha trovato con Sarri per fare una stagione grandissima. È un dubbio legittimo, perché è chiaro che è un dubbio legittimo, perché la situazione di Higuaín nel Napoli l'anno scorso era ideale da mille punti di vista, compreso quello emotivo, perché si è preso subito bene con Sarri, perché probabilmente ha trovato gli stimoli che con Benitez, con cui non andava molto d'accordo, non c'erano. Era una squadra che giocava grosso modo per lui, ha cambiato addirittura faccia, l'ho detto, per tutta la scorsa stagione, rispetto a quella molto perplessa, molto frigida, qualche volta scostante e un po' antipatichina che aveva nelle prime due stagioni, anche nei confronti dei compagni della tifoseria, e dunque ha giocato semplicemente la stagione perfetta. Non è detto che possa replicarla pure in una super squadra come è la Juventus di quest'anno. È un piacere per me salutare e ringraziare Umberto Zapperoni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Senti, hai qualche suggerimento anche tu per quanto riguarda il prossimo cinepanettone protagonista Vandanara? No, perché io ne sto raccogliendo molto. Credo ce ne sia una bizzeffa, insomma, non, poi sai, De Laurentiis sotto questo profilo non ha bisogno di molti suggerimenti, perché in quel campo è sicuramente un fenomeno. E siamo poi anche bravo a mettersi in moto. Bravo, siamo a una nuova, dicevo prima, siamo di fronte a una nuova epoca, no? Cioè, contratto per mio marito, contratto per me, con buona pace di tutti quanti. E come guarda, come un fulminante rompipallone di Gene Gnocchi dell'altro giorno, diceva parte l'epoca dei cineparentoni. Sì, peccato che quella di Boriello con Belen non sia confermata, sennò anche lì si poteva andare sul doppio ingaggio. Ma comunque Lì veniva più facile. Lì veniva facile, sì. Senti, volevo per la signora, non per Boriello, con tutto rispetto, è stato grande, ma qualche epoca fa. Pare che abbia ancora qualche stimatore in giro, però attualmente è distanza a Formentera e non credo si muova di lì. Beato lui, molto beato lui, direttore. Senti, volevo invece una tua battuta sul primo ribaltone alla Ferrari: James Allison via, al suo posto entra Mattia Binotto, dunque la prima testa a cadere è quella dell'inglese. Il rapporto non andava più perché la macchina che ha progettato James Allison quest'anno non ha dato i risultati che si credeva, e poi la situazione familiare di James Allison non lo rendeva più disponibile al 100% per restare a Maranello. Lui, come si sa, ha avuto un grave lutto, la moglie è morta con tre figli molto giovani, e lui aveva la necessità di tornare in Inghilterra in tutti i weekend, quindi non era più 100% committed con la Ferrari, e credo che di fronte a un caso umano così importante la Ferrari poi abbia deciso di non forzare la mano e di scegliere una strada alternativa. Insomma, Mattia Binotto è sicuramente una persona molto seria, è una persona molto preparata dal punto di vista motoristico e anche organizzativo. Ha rimesso in sesto il reparto motori, dove c'è stato il progresso più grande della Ferrari quest'anno. Adesso ha una sfida più grande di lui, soprattutto bisognerà capire poi però chi disegnerà la macchina, perché questo lui non lo sa fare, non lo può fare. Quindi lui può organizzare il reparto, andare a vedere se all'interno della Ferrari ci sono dei tecnici che possono garantire lo sviluppo di una macchina che sarà importantissima, perché cambieranno molti regolamenti quest'anno, alla fine di questa stagione. Quindi una scommessa importante da parte del presidente Marchionne, che può bruciare Mattia Binotto, ma può anche creare finalmente un grande capo squadra italiano. Ma è una mossa proiettata sul futuro, immagino, non sul presente, cioè una mossa proiettata sull'organizzazione della macchina dell'anno prossimo, che porterà a ingaggiare sicuramente qualcuno che poi la macchina la debba però disegnare. Però a questo punto io credo che, avendo nominato lui direttore tecnico, non si possa pensare poi che arrivi un grandissimo, perché sennò che ruolo possiamo affidare a un grande designer, all'Adrian Newey o alla Costa e compagnia. Quindi probabilmente la Ferrari andrà a cercare dei tecnici intermedi, magari dei numeri due in altre squadre, ma anche magari all'interno della stessa Ferrari, che possono cercare, come diceva Marchionne, senza il tappo sopra di loro, esplodere, come è stato un po' con i motoristi l'anno scorso. Una organizzazione che mi sembra riuscita da questo punto di vista. Sì, certo, è una grossa scommessa. Appunto, quello che ti stavo dicendo, a me sembra una scommessa molto, molto pesante, soprattutto viste le premesse di questa stagione, che si sono poi, lo sapevamo già, rivelate fallaci. Soprattutto andando incontro a un regolamento dove l'aerodinamica sarà molto, molto importante. Chiaro. Questo punto di vista, in Ferrari è sicuramente un punto debole, quindi ci sarà veramente da farsi il segno della croce prima di progettare la nuova macchina. È una scelta molto azzardata, devo dire. Marchionne ne ha fatte spesso, anche dal punto di vista del la sua organizzazione aziendale, certo era più semplice perché non avevi poi andare in un settore così specifico come quello della progettazione della Formula 1. Sì, direttore, invece cambiando argomento per chiudere, ne parlavo anche ieri, un'Olimpiade che cui ci stiamo avvicinando a rapide falcate e che nasce sotto una pessima stella, no? Ogni giorno ne leggiamo una diversa sulla Russia. Oggi su Repubblica avrai letto anche tu queste telefonate rivelate da Donati, queste pressioni per non far vincere Schwarzer, per lasciar vincere i cinesi, eccetera, eccetera. Un caso che vira verso il giallo, che comunque è tutt'altro che finito. Sì, qualche dubbio, perché Donati ha tempestato le redazioni dei giornali raccontando questa storia di queste telefonate ed altri particolari. Qualche dubbio attorno alla vicenda Schwarzer c'è sicuramente, qualcosa di poco chiaro è successo, però io credo che sta l'atleta a portare le prove, queste telefonate non bastano a fare delle prove a suo discarico. Il problema doping è enorme, lo sport continua a lottarci contro, ma senza con grande difficoltà riuscire a venirne a capo, perché vediamo che si arriva sempre in ritardo rispetto al doping che, che usano gli atleti. Però arrivare a squalificare così retroattivamente credo che sia l'unico segnale possibile per cercare di far passare la voglia di doparsi. Se ti becchiamo anche tra 5-6 anni, cancelliamo tutto il tuo passato, sì, può avere un significato. Certo, poi c'è il problema doping e c'è anche il problema organizzativo, perché non è che i racconti che ci arrivano dai primi avamposti italiani arrivati in Brasile sono incoraggianti. Appunto. Per quello che sta succedendo al villaggio olimpico e zone collegate. Quindi sarà un'Olimpiade, insomma, notturna, perché ce la vivremo di notte, però un'Olimpiade con molti punti interrogativi. Sì, che rischia di essere molto chiacchierata. In Brasile l'abbiamo visto ai mondiali, io l'ho visto per tantissimi anni in Formula 1, arrivavano a un minuto prima del via ed erano ancora impreparati, poi improvvisamente l'organizzazione almeno andava a posto. Io mi auguro che anche questa volta dal punto di vista organizzativo possa essere così, anche se sai, a Rio il problema traffico sarà enorme, il problema della comunicazione idem. Speriamo almeno in un'Olimpiade in cui ci sono dei risultati credibili, questo credo che sia importante per tutto lo sport e per noi che ci danniamo a raccontarlo tutti i giorni. Grazie direttore. Grazie a voi. Umberto Zappelloni. A tutti. Grazie a Umberto Zappelloni, vice direttore Gazzetta dello Sport, con cui chiudiamo appuntamento a domani dopo GR Europa. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. Ciao a tutti. See you at Vicarage Road. Thank you very much.